This fucking system is against music. E motherfucker cool ass. Mi chiamavano lo scemo di guerra, falsi. Poi la guerra l'ho fatta davvero contro il loro sistema. E adesso sparano ancora di più a zero. Falsità. Vedrai sulle riviste. Sulle riviste. Sul Rolling Stone Excel. Perché ho combattuto per queste cose. Per questo tu sei il numero uno. Ma adesso hai 90 anni e vaffanculo. Fai passare la nuova lega. Fammi una sega. Scemo come è di guerra. E chiedi io questa merda la sotterra. Facciamo un freestyle, ti lascio il digiuno. Pensi di essere qualcuno finché non hai incontrato uno come me. Che freestyle da quando fai il 93. Questa roba la portavo addosso come una croce. Sapevo che per lo scrivere sei andato in croce con una cicatrice cieca sopra gli occhi. E poi cosa guardi? L'immensità fuori dalla rottura del tempo. In un'altra dimensione ti porto. Vedrai una cosa che non si può dire oltre la cecità. Questa guerra l'hanno fatta a quelli come noi. Adesso ci chiamano avvoltoi. Siamo quelli sulle carcasse di quelli che volevano morti. Noi queste cose che facciamo noi non le sai fare, non puoi. Questa merda ti entra in testa come una roba gesta. Poi se prendi la pistola e spari in aria sulla mia tomba, qualcuno farà festa. Giriamo noi, giriamo la testa, gira la stanza, gira e arriva un'ambulanza che tira su un fango. 2 gigahertz, questa roba spinge più di un hertz, più di un gigahertz. A un'asta d'asta d'arte venduto a $1 milioni diventerai la nuova star mondiale. Vaffanculo te al tuo cane. Questa roba che è una roba che mi salta in testa. E ci sono cose che non posso dirti, perché allora cazzo ascolti. Questa roba è privacy. Abbiamo la nostra gang, bitch. Questa casa è una sala di intervento gastrico. Schivo con al collo un elastico sperando che mi strozzi. Questa roba la potrebbe cantare pure Fantozzi. Siamo elementari, baby, quindi ti tiro fuori il pacco piccolo e lo succhi lo stesso. Perché ti faccio pena, ti chiedo dovrei crescere. Ci sono cose che